perché Almina il coso di Abbettolo si è sentito male, ha avuto problemi, ma si è trovato uno che lo sentisse. Tutti quanti i diabetici che c'erano lì sono dovuti andare a settare il diabetico perché se no stavano male poi. No, non è possibile che in quel ramo lì siete vi sono tanti studiati e non si ha paura andare a travagliare. Cosa che vuoi dire? O lo fate di commento repticca, cosa ne so, magari vuoi un luogo sicuro, fisso, dai, allora non ci vanno per pochi giorni. Ma la gente la prende anche così a puntina magari, cosa ne sai? Insomma, perché quel mio medico, tu direi si guadagna, però cavolo, deve viaggiare tre volte alla settimana a Oristano, mi sa sassa. Sì, e poi sono di graziati, so, fa due, tre di non vanno, cioè. E te lo fai, cosa c'entra? Non dovrà pagare una stessa. Vabbè. Che vuoi che ti dica, non so, purtroppo lì non mi è rimasto così, è rimasto scoperto di dottore, questo qui un po' mi dispiace anche perché ho saputo che il dottore ha avuto un infarto, quindi non è roba da scherzare. Dottor Fulvio. Forse ti avevo compreso. Provo in basso. Quindi, insomma, molta gente è andata e ha trovato che non c'era. C'era solo un'infermiera che diceva appunto che non stava bene, che non si sapeva quando rientrava. E allora molta gente le ha detto, io sono un bel mese che non vado a fare i controlli perché non c'era lui. Ma si è andata comunque, ma io ne vedo una, devo essere posto d'orresa, devo essere. Anche perché l'ho vista a Porto Torres una volta, però deve essere il posto, una beccarina e una tipa con una Volkswagen Fox. Dove? Qua lavora l'INAM lì. Passo tanto, non la conosco, dove devi stare a Porto Torres? L'ho incontrata un giorno a Porto Torres, quando eravamo insieme. Sì, magari è andata a passeggiare. Ma è buona tutta questa tipa. Non ho capito che stai dicendo, non ce l'ho presente. Ma io sì però. Mi saluta sempre, mi saluta. Ah, ci saluta. Cappa. È lagando. Da quando c'è la sua fase di visita. Oh, la vedo io ogni mattina vivendo i ghibli a Tallina, ma lavora lì. Mi vedete di mattina, cioè, vi salutate di vista, siete conosciuti. Cappa, salutiamo così di vista. Eia, comunque è un beccarina. Ma io Polo Torres, biondo e così, a pronto soccorso non l'ho mai visto. No, lavoro, lavoro lì in Ambro. Qua Sassari. Ah, io Polo Torres l'hai vista passeggiando adesso, come tu che l'hai vista lavorando. Sta passeggiando una notte. Ma deve essere del dopo, deve essere, perché ne arriva a certa ora, ne arriva. Non te lo so niente. E a proposito, quella persona è tornata a casa? No, torna là perché devono mettere una cosa definitiva. La facciamo fissa. Il sondino fisso. Cappa. Sai che A mio amico gli hanno messo, al posto di fare l'insulina diabetico, gli hanno messo questo apparecchio che quando ha bisogno di insulina gli dà da solo. Sì, sì, ha detto che addirittura prima aveva sbalzi di glicemia, invece adesso non ne ha più. C'ha questa unità che le attaccano fissa, ha detto l'unica cosa che c'è un po' lavorando mi dà fastidio, ma già chi pure mattesse. È un casino, si è malato in re. Purtroppo ci sono, cosa bisogna fare? Invece di stare sempre prendi l'insulina, piglia quello lì, questa macchinetta e carica e ti dà sempre l'insulina che necessita. E quindi ti tiene sempre la glicemia al ritmo giusto. Capito, ragazzi. Ma ogni tanto bisogna andare che da a punire la cosa. Mi vuole caricata una cosa, comunque. Se ti daranno le cariche da metterle tu non penso che devi andare lì voce anche danno. Ti daranno delle cariche che tu metti e poi te le devi portare appresso, quando è carica te la porti attaccata. Via, che male brutto. Ma tu non la fai l'insulina? No, non è cattivo. Meno male. Io prendo le pastiglie, ma mi ha detto se mangio di meno che me le toglie. E magari non lo so, facendo una buona alimentazione già va bene. E più che buona devi fare ridotta. Guarda, così vero? L'ho fatto scaldare però. È così quando purtroppo esageri, poi si presentano queste malattie. Lo so, purtroppo è così. Tante volte non è manco perché esageri, magari c'è qualcuno in famiglia che ce l'ha e si è più soggetto. Purtroppo. Ma l'importante è cavarsela bene sempre. Ho fottito anche la San Bassano che buonissimo, ma io già glielo dicevo, ma ne rimanco, no? L'ho fottito. Oh già, ma cosa ti devo dire? Ho ripreso a fumare. No, Antuca. Ho preso sigarette al giorno, sto fumando, vedi? Quante? 20 al giorno. Non vi grido, Antuca. Non terrai più a prendere da loro. Ma fate gli scherzi, davvero? Ma vabbè, non sono così scemo, se ho smesso non ci ritorno più. Ma solo il fatto che ci pesci, cazzo, qualche ganarina di rivenera. Ma cosa? Bisogna appendilare a me, a tu che cannaretta. Tu una casa tua perché? No, a casa no, quando vado dai clienti. Sì, anche io faccio subito ambulanza, fumare tutti, però escono fuori a fumare. Ma molte volte quando stiamo parlando, ti comincio la sigaretta, mi dato un fastidio, va. Prima non mi dava fastidio, adesso mi dà fastidio. Anche a me. Io penso di esserne uscito alla grande, no? Non mi interessa più. Io te lo auguro. Io sono stato anche 5 anni senza fumare. Non bisogna più buttare. Cioè, non bisogna più buttare soldi in sigarette, meglio un'altra cosa, se ne è sciugo, ma va già caduto. Ah, quello sì, altro. Quello è meglio che ti compri un panino piuttosto che sigaretta. Scappa. Oh, mi stavo uccidendo, pensavo. No, no. Se ne sono uscito non ci posso ritornare, no? Tu già. Dipende. Io dopo 5 anni ci sono ritornato facendo cazzate. Un tiro qua, un tiro là, alla fine ma ne convinto. E tu la sigaretta fumandina, futidini, io già devo mangiare la sigaretta, già devo mangiare la sigaretta. E tanto, ma ne buttito. Scappa, io ho altre cose da pensare che la sigaretta. Ne è sbagliato che ne sono uscito, no? Non ci voglio più tornare. Manco scherzando. Ma solo il fatto che tu abbia buoni propositi, vedrai che ci dici, perché quando uno dice volere potere, e chi dà la ragione. Se invece uno dice non lo so, boh, ma alla fine poi ci ricasca. Giappa, ma siccome a me non me ne importa nulla di quella robaccia adesso, oramai l'hai già provato, basta, no? Io devo stare bene di fisico e devo faccio un lavoro pesante e non posso permettermi di stare cazzato in testa in bocca, perché mi sono reso conto che mi farei solo del male, basta. Io devo faticare, devo fare sforzi, non posso, i polmoni devono stare liberi, non possono essere con quella roba. E altro, l'altro giorno sono andato in pizzeria con degli amici e loro hanno fatto la provata, dice, io ho trovato il modo per fumare di meno. Mi ho comprato la macchinetta, sono un vasito di farli, i sigaretti, e ne sto fumando meno. E tu invece ci avevi lampato la macchinetta e tutto e avevi pensato a non fumare banuto e avevi fatto vita. No, quelli che fanno così vuol dire che vogliono fumare, non vogliono smettere. Uno quando vuole deve smettere, deve farlo definitivamente, deve buttare tutto, non deve lasciare manco più una, manco mezza, non deve manco più coniugare lo pacchetto. Così si fa. Tanto dico la verità. Una volta sono andato a pescare e mi è venuta la tentazione di comprarmele. Ma c'era uno che stava fumando vicino a me, ce ne assendiamo dopo l'altro, là di Gesù, è proprio lì che mi viene a capitare. Me ne la vende venire la gara, ed ero proprio sotto la torretta dove c'è il bar, la torretta che vende anche le sigarette, no? E già ero banda, la verità, la buia giù, di tu la camera quasi facile, la mille luci, due sigarette era tue. E non l'ho già pigliato. Scappa, e butti di cazzo, ma so, buona cosa, se cade il regolato io non fumo. È bello che meglio frilla questo qua, ma sta facendo bene la voce, no, non fumo, gli ho detto. Scappa, stai a dire, ascolta, no, perché questo tentatore, come mi dico, perché non puoi, visto che io me ne sono uscito, tu non puoi pregare a me a fumare quella roba, staccati il silenzio, fumatela tu. Io già faccio la mia parte, basta, io non voglio fumare, perché tu mi devi pregare a fumare? O ti tira? Allora, un attimino, tu, questo qui non sapeva niente che io avevo smesso e cosa, poi gliel'ho detto, gliel'ho raccontato e adesso allora basta. No, questo qui era un tipo che io ho conosciuto lì, perché stava pescando e ci siamo fatti una chiacchierata. L'ho conosciuto lì. Ma lui l'ha fatto per gentilezza, non è che l'ha fatto. Brutto quando sanno che hai smesso e cercavo di tentarti, che ti fanno dare a volte tanto, fuma a dire una giardinvagge. Così una volta gli ho fatto un zinino, che mi diziano tutti i canti, e io e Magna cosa ti fate lo semino, Magna futidini, che buono lui, cazzo che buono, mi sono cominciato in piedi, e gli ho detto a tutti quanti, se a me vi volete bene, mi dovete lasciare. lasciare mangiare la fettina come, perché ho portato la fettina, le fettine per me, mi dovete far mangiare le fettine, tranquillo, di cavallo, e voi mangiate lo zimino, però mi dovete lasciare in pace, non mi dovete tentare né nulla. Se mi volete prego, se no io mi giuro eliminando, perché mi state facendo del male facendo questa cosa qua. Beh, se uno non può mangiarlo, è quella la ragione. Cioè, perché io devo mangiare una cosa che mi fa di male? Cioè, lasciami perdere, io già mi arrangio, non ti preoccupare. Io voglio le fettine di pollo per dire che sono leggere, mi devo mangiare quelle, basta, cosa mi rompe le palle. Io per stare sempre insieme agli altri, cosa, mi portavo le fettine di cavallo da casa, roba così. Però roba grassa in quel periodo non ne potevo mangiare, che avevo il colesterolo alto, quindi non potevo mangiare roba grassa. Loro magari lo facevano per complimento o cosa, ma a volte si dicevano che catapoca è buono, oh mamma mia, assaggia quanto è buono, e ti ho già detto che non mi vedere. Ciao. Io lo dico una volta, se vabbè, ma il figlio di vecchia è cugino da dire. Aspetta un attimo, bianco un attimino. Ciao Pierino, se sentite la tua voce. Ciao, già, io sto facendo smontata che sto facendo cosa. Cava. Cava, e me mi sta chiedendo una cosa. Tu mi hai fatto finito o il titolare? Vabbè, tu finito, sta montando la stazione. Da smontare o da montare? Montare. Ma sono la camera d'aria e ti avete pitturato tutto. Ma la camera d'aria è ricca, se tu sei da me vuoi vecchia. Infine, o saranno. Vabbè, già lo so qualche cosa, io mi faccio tutto solo, almeno voi siete in due, io mi faccio tutto da solo. Da solo. Quando faccio questi lavori non mi voglio disturbato, metto la radio, me l'accendo, mi pongo a cantare, piano piano, come ti fate di bianchino? Che affagappa. Ma già per me non che, ma quando c'è da fare qualcosa, io è un casino. Mi sono che si pigliano. Lo so. Purtroppo, tu bisogna avallo. Lo so. Poi decidi, io mi sono stressato quando quest'estate. Mi ha fatto bagno, camera da letto, salone. I due bagni. Prima che solo la cucina da fare. Certo. Io una volta mi sono fatto la cucina. L'ingresso, una camera, cioè le due camere e il bagno. Cappa, dura, no? Forse la prima in una certa maniera in bianchino non è molto dura. Perché mi sa che ti attacchi la radio come ti posso io, mi sa un lento, assai la radio la copro con un giornale per non sporcarla e via. Cappa, ma non si inoltre, no. Io che la radio già vedi. Già ti spiegherò. Cappa. Tu che ti chiama Radio Boghe. Radio Boghe. Boghe sono dei pesci. Fammi arrivare. No, non sono dei pesci, no. Molti mi fa salito. Ah, sa Boghe. Giappa, stiamo a perdere, va. Cappa. Anche questo? No. Non voglio commentare. Cappa. E vabbè. Pensiamo che sono cose che vogliono fare, si fanno il buonanotte. E altre che vogliamo fare. Yeah. questa strada ci ho fatto tanti che ti dice che pelli che era un po' di tempo fermo, ma va che è sudato. Ciao magari. E che ne sono altro? Quasi di dentro so. Mica ci subiamo come ci facendo fatto. Li subiamo. Deve chiamare il cicco. E l'uomo da benzina anche. Ma non sai come sta cosa sono tutto dentro fatto. Dice non ha ne mai visto. Dove vai? Ha pagato. Tu non sai come l'ho detto, tutto fatto. Ci ha preso così. E se ne ha posta questa, Poi, Giampo, quanto ne dava? Si Giampo ha visto che ti dava 600 watt e 1000 del manotero. Capito. E un bel potere, poi l'ha anche toccato quello lì. Scusa, ma non aveva di più? Di più dava. Non ne dava di più. Giappa. E tu non riesci a portare a battavallo? Ehi. Se come se la spegnisse, si abbassava completamente. Quanto è arrivato via? Nella Valchiero? Cioè, va a attaccare di quella? Nei paesi? 9.20, 9.25. Bene, dove? Però arrivavo bene a tutte le parti, anche al Ghero. Andava di lusso come... Solo che dopo la corrente, quando arrivava la bolletta, Non si è potuto ora che arrivi? Boh, adesso non me ne ricordo. Ma per mai fondo scala. Vabbè, quelle cose lì poi non va bene in città neanche. Va bene usare in campagna. Un posto un po' isolato. Ma quello lì, quando ce l'avevo, l'attaccavo di notte, proprio notturno dopo l'una. Capo, a vedere se ci si dava acqua. Mamma si lamentava lo stesso, poi diceva, non ci avevamo manco il televisore, comunque la cosa, spegni tutto. Capo, lei a che orare? E a volte lo provavo, no? Lo provavo anche fuori orario. Solitamente attaccavo di notte fonda quando facevano le gare tutti qua. Ma poi ci vedi come arriviamo. Vedi quanti facevano le gare Valter, tutti quelli. E c'è voltando nelle MP2, la Palmo. Se sei in quinto. E il coso. E il Giambo. Una cosa bellissima con la stazione, c'aveva i distorsori per la voce, che c'aveva un bel roba. Che fa? Ma quando pompava quella cosa, uiuia. E non è che l'abbia avuto per molto tempo, intanto l'avevo venduto dopo perché era un po'. Mi rompeva le scatole mia madre. L'ho avuto poco tempo. Un 4 mesi così, e poi l'ho dato. Anche io l'avevo preso seconda mano. Kappa. E belli sono quelli brutti. L'avevo preso seconda mano, ma era nuovo. Le valvole nuove, tutto quanto nuovo. Kappa. E se tu sei in campagna? Non è bello da trattare, insomma. Cioè, senza nessuno che ti rompa le palle. Mi pare chi mi pone in moto, si attacca un gruppo elettrogeno, pone in moto e via. E allora pure in campagna ti rompere i cazzo, perché c'è tutta una attacca dall'asso. No, vabbè, noi in campagna un po' distante la gente. Se buona pompata ti rompe il cazzo di nessuno. E poi c'è una cosa, anche se non c'è la gente vicino, ti avvicini tu con quei vatteri. Non credo che ti avvicini. Ma alla fine non andate di venire, no? Non c'è nessuno, non stai disturbando a nessuno, infatti, cioè, sei per i fatti tuoi. Lo sì. Ma, dimmi, cioè, nel capo è canto a manettone, bro. Cavagano. Se la plattavo, magari. E comunque ne begli apparecchi. Ecco, lui solo la notte si poteva attaccare, lo nascondeva sotto al letto. Come ti posso dire? Devo pensare, se avrei avuto la casa a Plattamona, allora a passare come te la reviso. Attaccare tutto lì. Che affa? E chi vedi che ti invita a ricerca? Neanche d'estate, FedEx, Turchia, Slovenia, Spagna, Francia, di tutto. Sai che cos'hai come appena l'affetto? Faranno 700-800 watt, sai cos'hai? È micidiale. Io non ce l'ho, non lo so perché non ce l'ho. Però anche adesso stiamo facendo questi lineari a transistor che vanno molto bene. Anche a transistor, però usare potenza, soprattutto di altri posti, se ti porti soprattutto di mare. È una cosa impressionante, è micidiale. Quando arrivi in propagazione, cioè, magari puoi anche aprire la portante e coprire tutto. Dai. Via. Vedete. E fra poco sì. E se tre cose che ho fatto oggi ti buono le mani in capo, siamo andati con colloquio di Manuela. Abbiamo fatto file astronomiche, perché c'erano più di un professore. Erano divisi uno in ogni ora, la fila fino a fura, e ore e ore per parlare con tutti i professori. Da voi sono andato a fare una visita, dopo sono andato a prendere Marconi la mia suocera, insomma sempre andato. Chiappa. Allora la pupilla ti dice sempre la stessa cosa. Tanto. Ti colloqui, vai, guardi, suo figlio bomba. Io per Manuela potrei anche non andare perché tanto lo so che va molto bene a scuola, però è sempre meglio parlare anche con i professori, no? E chiappa. Ehi, sono dalla fine, se ti aspetti sempre la stessa cosa, ti dico. Cambia di qualcosa, ma la fine è chissà. Beh, io sono entusiasta di quello che mi dicono, perché mi hanno detto tutti i professori, meglio di così non si può. E cappa, studia. Studia e faccio. A le piace. Hanno detto che è seria, che è una persona seria. No, io ti ho detto, a lei piace. Sì, sì, nel senso di studio, dice una persona studia seria perché studia. Ci sono quelle che lo studio lo prendono un po' alla leggera, capito? Sì, dipende, anche secondo il carattere. Ma lei fa, quello è altro, cioè va a cantare, va a teatro, fa teatro, insomma, anche altro diversivo. Ma c'è, io non posso che ero tranquillo, sono quello che mi diceva, facevo, c'erano dei momenti che non vedo proprio. Chiappa. Sono dei momenti che ero bravissimo, più calmo di me non ce n'era, ma c'erano dei momenti che non volevo... A volte ha detto, ecco, girami il coglione. Girami il coglione, mi sospendo! E dice, allora fuggia. Vabbè. Comunque, diciamo che... mi dà delle grosse soddisfazioni, ma allora studia e ha dei bei voti, pur essendo in quinta superiore, c'ha 9, 8, tutto così la pagina. Direi che si impegna molto. È anche intelligente, perché io mi ricordo che quando studiavamo, eravamo in tre noi che studiavamo insieme, tutti e tre nella stessa classe. Io un amico mio, una volta la leggevamo la roba sotto la moglie, era anche se mio compagno di scuola che non le c'entrava in zucca, la poteva leggere 3, 4, 5 volte, poi la ripetevamo, no? La prima volta non si ricordava più nulla. Ciappa. Ma io la verità me ne sono sempre un pochettino fregato, ma sto imparando adesso. Allora metti in atto una cosa, la tupida della battente. Cappa, problema, dammela a prendere. E ne che posso. So, cioè, adesso tutto quello che io mi leggo da 3 giorni me lo ricordo benissimo. Vabbè. E vedi, adesso che sei giovane approfitta la pigliata della patente, perché poi non sei fresco di mente, non te ne ricordi più delle cose. Certo che me la devo prendere, fai pure. Non ti preoccupare che già me la prendo. E prima o poi me la prendo. Cappa, cappa. E serve a te, mi alzo. Cappa. Capologia, oggi stavo guardando la miseria, stavo guardando l'olio che usano, l'olio scilegna, che usano le macchine a parte. Allora la sto costa. Costa 48 euro 2 litri di olio. Ci credo. Così tanto. No, io mi ricordo che costava 14 il chilo. No, quello lì costa perché per quelle macchine lì è un 10,50, non è 10,40. E devi metterci quella, devi metterci perché hanno, sono motori spinti, hanno la turbina e deve lavorare così, intercooler. Insomma, sono più di 20 euro al litro però. Non è possibile, c'è il gocciabo qui su. Costa perché è un olio che fa chilometri e poi anche quei motori sono spinti. Devi mettere per forza quello. Dunque non tema, Apart. Cosa tu? Tema, c'è scritto Silenia Apart. Bello. Quello appunto Apart del camion, Scappa. E quello lì ci vuole, dice, guarda, non ne puoi mettere altri perché... Ci vuole quello di lì perché la turbina dice va in aspirazione, non so che cosa, deve lubrificare forte. E sono dei motori spinti al massimo, se no dice con altri oli non andrebbero tanto bene. Insomma quando accelera è micidiale. Avanti, io ti auguro una buona notte, mi sto addormentando, non vorrei che poi magari vecchiamo e mi seguì a dormire. Ci sentiamo, Anto. A domani, se tutto ok. Ciao ciao. Ciao, buonanotte, ciao. Anto, ciao. Ciao ciao, buonanotte.